da Angelo Arduino, che come sempre cura la regia ma anche la parte tecnica oggi, e da Pino Simplicio in funzione di conduttore di questa trasmissione, e infine da Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpradio.it. E oggi, lo avevamo già annunziato la settimana scorsa, abbiamo il piacere di avere qui alla villa, in diretta dalla villa comunale, il presidente del consiglio comunale Pippo Barracato, poi ci sono un po' i capigruppo Rosario Lapunzina, Carmelo Mangano, Nicola Noto e il rappresentante del gruppo misto Vincenzo Liberto. Manca Giuseppe Genovese che ha degli impegni, e Pasquale Messina che per motivi di salute. A Pasquale Messina facciamo i nostri cordialissimi auguri di rimettersi presto e di ritornare presto tra noi, magari in un'altra trasmissione. A fare le domande ci saranno i giornalisti Peppe Livecchi, che penso ci raggiungerà più tardi. Salutiamo intanto Mario Macaluso, direttore di Cefalo News, corrispondente del Giornale Sicilia, che ci ha raggiunto qui alla Villa Comunale, Riccardo Gervasi di La Voce Web, poi abbiamo anche l'altra Cefalù, che è rappresentata oggi da Nicola Pizzillo, grazie Nicola anche per la tua partecipazione, ma che è venuta anche con altri componenti dell'altra Cefalù, che sono Daniele Tumminello, Gianfranco Danna, Francesco Scorsone, e li ringraziamo tutti, anche se la domanda la porrà soltanto uno. La parte tecnica, come vi dicevo, è curata da Angelo come sempre, che cura anche la regia. E intanto vorrei ringraziare il bar La Villa, che anche oggi ci ospita per questa trasmissione, e vorrei iniziare subito, ecco, con la carrellata di domande che il nostro Pino Simplicio, spina dorsale, una delle spine dorsale dei CRM, comincerà a fare. Direttore, io la ringrazio per questa sua presentazione, ma senza di lei qua e là c'è una novità e l'altra, nulla sarebbe. Buona domenica a tutti da Pino Simplicio, 15 gennaio 2012. Io direi di iniziare subito. Invito i signori giornalisti che andranno a fare le domande di essere sintetici, e con la stessa sinteticità invito i rappresentanti, i capigruppi qua presenti, di poter rispondere, così abbiamo la possibilità di fare più domande. Ecco, prima, a beneficio proprio dei nostri radioascoltatori, Livecchi è qua e quindi ci siamo tutti, a beneficio dei nostri radioascoltatori io inizierei dal Presidente del Consiglio, perché Presidente, se lei cortesemente, che ha vissuto questo quinquennio, siamo quasi alla fine, se può fare proprio il panorama, i gruppi come sono costituiti in Consiglio Comunale allo status quo, perché indubbiamente, sicuramente noi stamane andremo anche a verificare da dove siamo partiti e come stiamo arrivando a conclusione di questo quinquennio. Grazie Pino, è anche una mia curiosità questa. Che mi sembra un fatto molto ma molto importante. Il fatto che adesso cominciano a figurare le sigle dei partiti a Cefalù, eccetera, eccetera, non può fare altro che piacere, così abbiamo dei punti di riferimento ben precisi e non delle persone a sé stanti. Grazie professore Barracato. Indubbiamente una domanda complicata, perché fare un po' il resoconto della situazione dopo tanto tempo, con tutto quello che è avvenuto nella vita dei partiti cefaludesi, è complesso. Però debbo anche ricordare che quando 5 anni fa c'erano parecchie liste civiche, non solo partiti, erano forse più le liste civiche che non i partiti. Io stesso sono stato eletto in una lista civica, noi per Cefalù, così come mi ricorda pure il consigliere Noto, che anche lui era in questa lista. I partiti presenti all'inizio erano pochissimi, c'era il PD che aveva ed ha tutt'oggi tre rappresentanti ed è uno dei pochi partiti che è rimasto così come era alla partenza. Poi c'è stato il partito della libertà che praticamente il polo della libertà che praticamente della libertà, mio favore, rimane, ma rimane con componenti che sono completamente diversi rispetto a quelli dell'inizio, almeno alcuni. E il partito poi c'è stato il PDL Sicilia a cui ho aderito pure io, ed poi c'è stato il PDL Sicilia che è diventato Grande Sud, e l'UDC che ha avuto varie metamorfosi nel tempo, interne, vicissitudini. Quindi c'è un quadro politico oggi che è completamente diverso, però di positivo credo che ci sia che stanno ritornando finalmente i partiti, perché ci siamo resi conto tutti quanti che le liste civiche evidentemente funzionano male e probabilmente sono una delle cause anche di un certo tipo di di lavoro fatto male che nell'arco del tempo si è verificato. La lista civica insomma non consente, è più facile che dia la possibilità ai consiglieri comunali di lavorare ognuno per conto proprio che non invece di esprimere un'idea di un progetto di partito che si vuole portare avanti. Quindi da questo punto di vista credo che sia veramente, e il primo a dirlo sono io, cioè le esperienze più negative che possono esserci nella vita del Consiglio Comunale. Grazie Presidente, allora io direi di iniziare subito, iniziamo con la prima domanda. Caro Presidente, mi lascia passare una battuta, però dove ci sono i partiti poi abbiamo il Premier che è al di sopra dei partiti, dovrebbe almeno essere al di sopra dei partiti a livello nazionale, quindi ci dobbiamo veramente aprire gli occhi e dobbiamo riflettere per il futuro non solo della città di Cefalù ma dell'Europa, perché ormai dobbiamo ragionare in tema europeo. Riccardo Gervasi, la voce Webli, io gradirei se fosse possibile le domande, la domanda alla quale possono anche intervenire tutti gli altri consiglieri, tranne se non c'è proprio una domanda specifica per qualche consigliere. Ecco. Pino, scusami, prego. Riccardo Gervasi, volevo soltanto aggiungere una cosa, che Giacomo Sapienza è impegnato al lavoro oggi all'ente parco delle Madonie, quindi non potrà essere presente, così come Vincenzo Lombardo è impegnato a Palermo per motivi di lavoro. Ecco, Riccardo Gervasi. Sì, buongiorno. Allora, la prima domanda è semplicissima e parte da un fatto di cronaca fresco e si collega peraltro a quanto ha appena detto il Presidente del Consiglio Barragato, per cui è una domanda che rivolgo a lui, ma possono rispondere anche gli altri. Francesco Calabrese è passato all'UDC e si è portato Alberto Barranco. Prendendo spunto un attimo da quello che è stato il vissuto, cioè l'esperienza personale di il Calabrese, ex Alleanza Nazionale, va bene, poi è passato al PDL perché Alleanza Nazionale è diventato tutt'uno con il PDL Sicilia, Forza del Sud, è uscito da Forza del Sud prima che divenisse Grande Sud, è approdato a Cefalù Cambia e da Cefalù Cambia poi è passato all'UDC. Mentre era a Cefalù Cambia, nella lista, in questo gruppo che era Cefalù Cambia, strizzava l'occhiolino a Pippo Barranco, il neo assessore che adesso ha dato le dimissioni, che faceva parte dell'UDC ma era stato sconfessato dallo stesso partito, dalla stessa UDC. Ora io penso che questo è un esempio, perché ne potrei fare un altro, per esempio Roberto Corsello, vice sindaco, eletto nella lista del PDL, partito che aveva un candidato sindaco, partito che era all'opposizione. Dopo circa un anno Roberto Corsello entra in giunta. Cioè ci sono stati tutta una serie di trasformazioni, di metamorfosi, di cambiamenti che credo siano piuttosto incoerenti dal punto di vista politico e potrebbero anche avere giocato negativamente su quelli che sono i lavori, su quelli che sono stati i lavori del Consiglio Comunale. La domanda è: cosa ne pensa lei, se ha influito tutto questo negativamente ed eventualmente se tutto questo non si possa ripetere nuovamente? Perché è vero che i partiti politici danno delle direttive, ma è altresì vero che tante altre volte i partiti politici ci sono stati e gli stessi si sono poi frantumati nel corso della consiliatura. Grazie. E allora io ti ringrazio, capisco che la domanda è molto articolata. Intanto salutiamo Calabrese e Barranco che stanno seguendo in diretta qua dalla Villa Barri, che noi ringraziamo sempre per questi spazi messi a disposizione, questi spazi eleganti. E allora risponde il Presidente, ma se i consiglieri desiderano, ecco, i capigruppi, scusate, ovviamente no, i capigruppi, ecco, desiderano pure dare una risposta, io vi prego brevità, perché sennò stamane ci perdiamo per strada. Prego Presidente. E allora io sarò brevissimo. Ci sono due esempi che il professor Gervasi ha portato e sicuramente non hanno aiutato a fare chiarezza nell'ambito della il panorama politico cefalodese, e soprattutto quello di Corsello, mi pare, insomma, ecco, che sia stato, perché Corsello è andato a fare il vice sindaco poi, quindi evidentemente ha assunto, ma tutto questo poi ha portato a uno scardinamento della maggioranza, perché se le posizioni fossero rimaste quelle iniziali, il sindaco, se io non ricordo male, aveva dalla sua parte 13 consiglieri e con 13 consiglieri si governa bene. Invece allo stato attuale, se partiamo dall'inizio, se vanno alla conclusione, trovare due consiglieri che facciano parte dello stesso gruppo, già di parte il PD che evidentemente è rimasto coeso dall'inizio fino alla fine, però trovare due consiglieri, stendiamo noi a costituire gruppi, perché non riusciamo evidentemente ad avere tre consiglieri per fare il gruppo. Tant'è vero che c'è stato un momento in cui il gruppo misto mi pare che contava 11 consiglieri, se non ricordo male. 11 consiglieri del gruppo misto significa che proprio evidentemente non c'è più nessuna chiarezza politica, perché il gruppo misto può esprimere tante opinioni diverse, ma sicuramente non esprime un'idea condivisa da tutti. Ci saranno lo stesso capogruppo che rappresenta il gruppo misto, evidentemente ha difficoltà a esprimere il pensiero di tutti quanti i consiglieri che fanno parte di questo gruppo misto. Quindi è chiaro che quello che dice lei è evidentemente la verità. I partiti sicuramente possono anche disgregarsi in strada facendo, però è chiaro che alla base c'è sempre un'idea comune dipende anche dalla qualità dei consiglieri stessi, se evidentemente riescono ad essere coerenti con quello che, questo è quello che penso io, per questo mi riferivo alla necessità di avere partiti. Nicola Noto, ecco, anche lui desidera intervenire. Desideravo intervenire per precisare la posizione, siccome è stata fatta una domanda ben precisa riguardo al consigliere Calabrese, al consigliere Barranco che sono transitati all'UDC. Cioè questo passaggio non determina la disgregazione del gruppo Cefalucambia. Cefalucambia ha una sua connotazione ben precisa e ricordo che io non faccio parte dell'MPA, quindi è un gruppo misto che continua, diciamo, a esistere come entità di gruppo proprio in consiglio comunale sulla convinzione di fare un modo nuovo di fare politica e di considerare la politica in modo, diciamo, diverso rispetto al passato. Una politica che parte dal basso, che aggrega e che coinvolge anche il mondo giovanile, che è, diciamo, una situazione molto importante oggi come oggi, coinvolgere i giovani nel destino che poi del loro futuro. Quindi devo puntualizzare questo, che Cefalù cambia, rimane come entità di gruppo in seno al Consiglio Comunale. Anzi, si auspica che più forze politiche, più persone accedano a questo gruppo per renderlo più forte. Ringrazio dei capigruppi, desidero, prego, Saro Lapunzina, Rosario. Io vi ringrazio per l'invito e questo è un appuntamento che ormai va avanti da diversi anni, per cui grazie a Cefalù Radio Madonie. La domanda di CRM P Radio, ecco. Ma perché Cefalù Radio Madonie ci porta a quella che è la genesi della radio, e poi CRM P Radio non tutti la riconoscono. E la domanda del professor Gervasi è molto importante anche rispetto a quello che è successo all'interno del Consiglio Comunale. Prima di tutto io apprendo dall'amico Nicola Noto che il gruppo Cefalù Cambia rimane in seno al Consiglio con un componente dell'MPA e due dell'UDC per un cambiamento nella città, però dico, facciamo riferimento sempre a questioni locali e non legate a vicende di partito, perché sappiamo che l'UDC per esempio con l'MPA sono per ora in una guerra costante a livello regionale, per cui se dobbiamo parlare di partite, se dobbiamo parlare di posizioni politiche, perché pare che si parlava di questo un po' fa la guerra. Però dico, questo evidentemente sono questioni che non riguardano sicuramente il Partito Democratico, che dall'inizio, ed è questo il centro dell'intervento che volevo fare, dall'inizio di questa consiliatura ha tenuto con coerenza, fede a quello che è l'impegno preso con gli elettori, e ha visto, tra parentesi, in un gruppo particolare che è quello del PDL, e di questo che volevo parlare, l'accenno a Nicola Noto era soltanto per questione insomma di evidenziare la presenza di due partiti all'interno di un gruppo, ma il centro della questione proprio sta nel gruppo del PDL. Io ricordo che il gruppo del PDL ha iniziato questa consigliatura all'opposizione di questa amministrazione Guercio. Io ancora conservo nella mia posta elettronica una bellissima lettera dell'avvocato Corsello che mi spingeva, anzi l'ha proprio scritto lui, a trasmettere alla Corte dei Conti un ricorso. L'avvocato Pino Corsello. L'avvocato Roberto Corsello. Un'email che mi ha scritto nel 2008 dove mi invitava a trasmettere alla Corte dei Conti un ricorso per l'approvazione del bilancio. Per cui era un'opposizione dura che ha iniziato il PDL. Che cosa è successo poi? È successo che lo stesso PDL, lo stesso capogruppo di Roberto Corsello in aula ha annunciato di qualora presentata una mozione di sfiducia l'avrebbe votata. Così è stato, 10 consiglieri comunali hanno presentato una mozione di sfiducia firmata da 9 consiglieri, ma con la garanzia che il Presidente del Consiglio l'avrebbe votata, e all'atto della votazione nel mese di dicembre del 2009, cioè a 2 anni e mezzo dell'esperienza Guercio, un'esperienza sicuramente fallimentare riconosciuta da tutti quelli che avevano firmato la mozione di sfiducia, ma anche dallo stesso PDL che in aula aveva annunciato il voto, il Roberto Corsello, vice sindaco di questa città, ha ritenuto lasciare perdere quelle che erano le indicazioni di partito, ma accettare quella che era la poltrona di vice sindaco. Ecco, questi cambiamenti, mi rifaccio la domanda, sì che hanno influenzato moltissimo i lavori del Consiglio Comunale, perché hanno cambiato la geografia politica del Consiglio Comunale. Coloro i quali avevano perso le elezioni, coloro i quali avevano gridato in piazza che quella era una cozzaglia di persone, che era un'armata a Brancaleone, come più volte detto dall'avvocato Corsello in Piazza Duomo, sono andati a fare i rappresentanti più illustri di questa amministrazione, come quella di fare il vice sindaco di questa città. E questo ha influenzato molto, perché Pippo Guercio è rimasto quasi da solo, con il fedelissimo Mangano e con qualche altro che ogni tanto dice di fare parte di questa maggioranza, ma lo dice a bassa voce perché si vergogna, e con un numero che è sempre minore, si parla di 5-6 persone che sostengono un sindaco. Allora concludo dicendo, come si può andare avanti e come si è potuto andare avanti gestendo la città e portando avanti un programma elettorale con 5-6 consiglieri comunali? È evidente che il programma del sindaco non si è potuto realizzare perché il sindaco ha perso la maggioranza, perché si è messo con parte dell'opposizione che gli aveva gridato armata a Brancaleone. Vincenzo Liberto. Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Io rispetto alla domanda fatta non vorrei parlare di della incoerenza, della non incoerenza degli altri, perché diciamo poco mi importa, ognuno prende le proprie responsabilità che vuole. Io invece vorrei ricordare quelli che sono alcuni passaggi forse mancanti della storia della consigliatura insieme a Pippo Guercio, partendo dal fatto che abbiamo avuto sin dall'inizio una solida maggioranza composta da 13 componenti, ma che poi rispettivamente forse qualche anno dopo cominciava a perdere pezzi per il semplice fatto, e ricordo il passaggio e la creazione del gruppo misto in consiglio comunale semplicemente basato sul fatto che il sindaco Guercio non rispettava quello che era, o quantomeno non portava avanti quello che erano i principi fondamentali del programma elettorale che ognuno di noi aveva sposato. A un certo punto nel 2009 praticamente succede questo, che il sindaco Guercio dice pubblicamente che il programma elettorale iniziale non esisteva più. Quindi sulla base di questo io credo che l'atto di coerenza del sindaco era quello di congedarsi e di dimettersi, perché quello che era il programma elettorale esposto alla cittadinanza in quel momento non c'era più. Rispetto al fatto che il sindaco non abbia fatto più questa scelta o non abbia optato per questa scelta, naturalmente è normale che i consiglieri comunali hanno sposato la teoria della sfiducia, perché mi sembra, dico, un atto coerente rispetto a quello che è successo. Ricordo anche il passaggio di Corsello, che fino alla sera prima insisteva sul fatto che avrebbe votato la sfiducia. Ci sono anche riprese video, ci sono testimonianze di qualsiasi genere anche attraverso Cefalo News e altri. C'è Roberto Corsello, no, non è qua presente, ma dico c'è Roberto Corsello, prego. Sì, posso. Come no? Successivamente a questo, naturalmente non poteva altro che essere la mia posizione personale rispetto a una sfiducia che non è passata, quella di andare all'opposizione. Rispetto al discorso politico dell'UDC, di cui io ne facevo parte, diciamo sin dall'inizio, è successo questo, che praticamente a un certo punto si è cercato di riunificare quelle che erano le forze all'interno dell'UDC, cioè i tre consiglieri che ne facevano parte inizialmente, più i due che erano Cassatello Verde, che pur essendo eletti in una lista civica, nel loro diciamo ambito politico giravano attorno all'UDC. Quindi si è consolidata l'idea di portare in consiglio il gruppo dell'UDC unificato a 5 elementi, con la prerogativa fatta insieme a quello che era il commissario momentaneo eletto in quel momento, che era Cordaro, con la premessa che l'UDC andasse all'opposizione della Giunta Guercio, perché ripeto, quello che era il programma politico sposato sin dall'inizio non esisteva più. Rispetto a tutto questo però c'è stato un momento in cui, secondo me, di incoerenza dell'UDC rispetto al fatto che l'UDC si poneva all'opposizione dell'amministrazione Guercio, però nello stesso momento viveva l'amministrazione con un componente proprio messo all'interno, che oggi ancora vige in questa amministrazione, che è l'avvocato Patanella, cugino del signor Livecchi qui vicino a me. Quindi rispetto a tutto questo poi ci fu un altro passaggio, che è quello regionale, in cui l'UDC decide di andare verso l'MPA. E siccome mi vedeva alquanto, diciamo, non la vedevo come posizione, per cui io non condividevo questo pensiero, e quindi la mia fuoriuscita dal partito dell'UDC rispetto a questa decisione regionale è il mio passaggio anche a oggi quello che si chiama il partito del Grande Sud. Grazie, Carmelo Mangano. siamo sulla storia e sui passaggi che ci hanno portato ad oggi. No, ovviamente scusarmi. Poi le domande vertiranno come... sui fatti, sui lavori del Consiglio Comunale. Dovete scusarmi, ma ho pochissima voce, mi scuso con i radioascoltatori. Però ho la vaga impressione che abbiamo perso anche il senso delle domande che il giornalista... Eravamo questo cambio di geografia politica, soprattutto relativo a due consiglieri comunali che oggi ha due esempi. Non vi è dubbio che il sindaco Guercio, a cui si può attribuire tutto e il contrario di tutto, in questa consiliatura, non credo che sia l'unico responsabile della situazione complessiva che si è venuta a creare a Cefalù. Se il cambio di casacca riguarda questioni di carattere politico, eccetera, è una cosa. Ma quando questi cambi di casacca hanno riguardato più che altro personalismi che si sono ingenerati in seno al Consiglio Comunale e che di fatto hanno distrutto quella che era la maggioranza che Pippo Guercio si portava dalle elezioni e bloccando di fatto la vita amministrativa della città, perché ho sempre sostenuto una cosa: l'amministrazione non è soltanto il sindaco, l'amministrazione è anche Consiglio Comunale. Certo, nel momento in cui un sindaco non ha più la maggioranza si creano delle gravissime difficoltà, ma guardate che questa situazione si andrà, che abbiamo vissuto, non è che non la ritroveremo nelle prossime elezioni. Questo passaggio elettorale che vede, credo, 6 o 7 candidati a sindaci con una frantumazione di liste e frantumazione, diciamo, di partiti, questo porterà in Consiglio Comunale ad avere una geografia all'interno del Consiglio che probabilmente sarà peggiore di quello odierna. Quindi dire che Pippo Guercio se ne doveva andare perché non aveva più la maggioranza all'interno del Consiglio è un fatto molto strano se guardiamo praticamente a quello che potrà succedere da qui nelle prossime elezioni, nella prossima tornata. Il problema è diverso. Noi purtroppo abbiamo avuto un Consiglio Comunale, e dico purtroppo, lasciamo perdere dal posizionamento eccetera, io sono personalmente con il consigliere per esempio Calabrese, per non fare altri esempi, per molti fatti siamo in sintonia in Consiglio Comunale, apparteniamo a due gruppi completamente diversi, però non ci sono dubbi che noi ci dobbiamo confrontare sulle cose e credo che il Consiglio Comunale si debba confrontare sulle cose. Purtroppo il Consiglio Comunale di Cefalù ha vissuto questi anni non sul confronto ma sullo scontro, uno scontro che non ha fatto bene alla città, solo questo dico. Il Consiglio Comunale poteva anche camminare in maniera autonoma dall'amministrazione attiva, poteva affrontare la parte regolamentare, poteva affrontare moltissime cose, l'ha dimenticato. Certo, se io mi ricordo ai tempi di Simona Vicari aveva una maggioranza che gli ha consentito di governare anche il Consiglio Comunale per alzata di mano, abbassato. Io credo che il Consiglio debba avere un comportamento diverso. Il Consiglio deve avere la capacità, pur nella differenza, di agire con sinergia, perché il Consiglio Comunale è l'amministrazione comunale, è quello che rappresenta nella sua interezza la città. Ora non mi preoccupa il fatto, dicevo poco fa, che Calabrese abbia cambiato eccetera, Io sono delle valutazioni personali, io non dico nemmeno come fatti di coerenza, sono delle valutazioni assolutamente personali. Mi interessa però che ci sia la possibilità in consiglio di discutere. Mi interessa che non ci siano chiusure assolute, cose che si sono verificate in questo consiglio comunale. Si è calpestato la qualunque. Carmelo, guardate, una cosa che più, Carmelo, mi ha dato fastidio, prego, in questo consiglio, ma proprio per questioni di coerenza, se vi ricordate, è stata la questione del revisore dei conti, dove in quel momento si è calpestata nel consiglio comunale di Cefalù. Sembra una cosa stupida, ma non è così. La democrazia è il segnale di un comportamento scorretto di un consiglio comunale. E allora, grazie Carmelo Mangano, mi fa piacere che la voce è ritornata ridondante ed è durata parecchio. Io vorrei pregare per questo i colleghi che intanto la domanda l'hanno fatto e continuano a farla breve, ma vorrei che anche le risposte fossero brevi, in modo da consentire a tutti i giornalisti, ce ne sono qui, Mario Macaluso, no, non è fatto a Carmelo, assolutamente, perché tutti si sono, hanno parlato quanto hai parlato tu all'incirca, quindi non è un rilievo a Carmelo Mangano, non mi permetterei assolutamente, ma dico che ci sono tanti colleghi che devono fare altre domande e quindi e vorremmo saperne di più. Anch'io ho qualche curiosità oggi. Adesso, Pino, prego. Mario Macaluso, direttore Cefalù News. Intanto un saluto a quanti ci stanno ascoltando. Io farei una domanda che negli ultimi mesi sto cercando di porre anche all'attenzione del giornale. Parto con un dato. Il consigliere Mangano era sindaco della città nel 1987, allorquando, dopo le sue dimissioni, a Cefalù arrivò il compromesso storico tra il Cavaliere Portera e Giovanni Cristini. Pippo Barracato è stato assessore della prima giunta Vicari e siamo alla fine degli anni 90. Il dottore Noto, consigliere comunale degli anni 80. Saro La Punzina è da 10 anni oppositore in consiglio comunale. Solo tra i presenti potremmo continuare nell'elenco dei consiglieri comunali, perché Laura Gattuso, assessore negli anni 80, il sindaco Guercio, sindaco negli anni 80, sì, fu nell'anno 90 ma fu eletto nell'88 in consiglio comunale. Poi Roberto Corsello, vecchio presidente del consiglio primi anni 90. Domanda: ma se le persone quasi sempre sono sempre le stesse, perché i problemi non si risolvono mai? Perché l'acqua, il problema è risolto, il teatro, il problema è risolto, il traffico, il problema è sempre lo stesso, il turismo, il problema resta. Domanda: stesse persone, stessi problemi, perché questi problemi non si possono risolvere? E allora, siete stati tutti chiamati in causa e a voi il microfono, prego. Io intervengo. Nicola Noto, scusami Nicola. Intervengo per un coinvolgimento personale e desideravo che il direttore di Cefalù News attenzionasse un fatto molto importante, che in questo panorama di personaggi che lei ha citato, l'unico che non ha mai fatto carriera è sottoscritto. Non ne ho fatto neanche in altri campi, però diciamola per coerenza, ho fatto sempre il lavoro umile e semplice di consigliere comunale, perché attribuisco alla funzione di sindaco e assessore un alto valore. Attribuisco a quei personaggi che dovrebbero dirigere le sorti di questa città un coinvolgimento totale, cioè della propria persona, nel senso che non si può amministrare Cefalù, che è una cittadina importante della Sicilia. Non si può amministrare Cefalù a tempo perso. Quando si ha un po' di tempo si va a dedicare un po' di proprio tempo al comune di Cefalù. Se noi continuiamo ad attribuire al sindaco e alla giunta quel valore così parziale di perdita di tempo, noi i problemi, caro direttore, non li risolveremo mai. Noi li potremmo risolvere soltanto quando ci sarà una squadra composta dal sindaco e da quattro ore assessori che giornalmente, dalla mattina alla sera, stanno lì a lavorare. E questo sarà un esempio, diciamo, per diciamo, gli impiegati comunali, per gli uffici, ma anche per la città. È un esempio in cui si mette a nudo quella che è la realtà di Cefalù, cioè che l'assessore, gli assessori e il sindaco, diciamo, lavorano finalmente per Cefalù. Io non ho mai voluto fare l'assessore, perché qualche volta mi è stato proposto, non molto spesso, ma così anche forse, come si dice, per facciafaria, ma in virtù del concetto che io ho dell'amministratore, dal momento che non posso dedicare tutta la mia giornata all'interno del comune, mi sono sempre rifiutato. Ed ho messo la faccia in consiglio comunale per dare un mio modestissimo contributo, ma è solo l'amore che ho verso questa città che ogni volta mi porta a candidarmi. Questo. Grazie al dottore Noto, prego. Rosario Lapunzio. È evidente che chi ha la responsabilità di risolvere i problemi è chi amministra la città, chi è stato come me 9 anni con questo 10 all'opposizione di questa città, deve cercare di dare soluzioni diverse, indicare soluzioni diverse rispetto a quelle che prospetta e che amministra, ed evitare che si facciano danni come quelli che certe volte abbiamo evitato, come lo ricordo sempre, la privatizzazione del cimitero, ma tante altre cose nefaste che sono state fatte alla città, impoverendo la città. Io lo dico per tutti, la risoluzione del problema della potabilizzazione dell'acqua è passata attraverso la costruzione di un potabilizzatore i cui costi sono stati riversati nei confronti dei cittadini, e che hanno non risolto il problema totalmente, perché non si è risolto il problema principale, che è quello delle linee di adduzione che porta l'acqua a casa. Per cui diciamo che la città in un certo senso ha subito questo costo maggiore rispetto a quello che è il costo dell'acqua, però non ha risolto al pieno la soluzione, non c'è stata la soluzione. Per cui i problemi vanno risolti, diciamo, da chi amministra. Io ricordo, per esempio, ho portato qui stamane l'elenco degli impegni presi dal sindaco attuale, ecco, per non andare distante, per evitare dietrologie, per cercare di evitare di parlare di Simona Vicari, ma parliamo per esempio dell'attuale sindaco. L'attuale sindaco nei primi 2 anni e mezzo non ha centrato nessuno dei punti del programma che ha portato ai cittadini, ha avuto un largo consenso, ha avuto 5.000 e più voti, ha avuto una maggioranza, ricordava il presidente poco fa, di 13 consiglieri comunali. Poi, se non è riuscito, e questo mi dispiace che Carmelo Manga non l'ha sottolineato, se non è riuscito a tenersi quella maggioranza, a garantirsi un numero di consiglieri per portare avanti il suo programma, evidentemente la colpa non può che essere attribuita al primo cittadino. Ma a parte questo, io dico, nel 2009 il sindaco Guercio ha presentato, proprio quella sera della sfiducia, la ricordo, un mini programma che ha posto a base di questa nuova alleanza. Io, caro Mario, per risponderti te lo voglio leggere: risanamento del bilancio e razionalizzazione delle entrate, riorganizzazione apparato amministrativo, miglioramento delle condizioni di vivibilità della città con particolare riferimento al centro storico, definizione dell'iter del PRG, individuazione delle aree da destinare a parcheggio, messa in sicurezza e completamento del porto, realizzazione di aree attrezzate per il mercato settimanale, revisione del piano utilizzo spiagge. Cioè, non una di queste cose è stata realizzata. Allora, è evidente che, al di là del fatto che i personaggi, magari se uno l'individuo possono sembrare gli stessi, ma le responsabilità non possono essere attribuite a tutti. Le responsabilità vanno attribuite principalmente a chi guida, a chi ha preso degli impegni nei confronti della città. Condivido quello che diceva Nicola Noto e concludo sul fatto che non ci possono essere impegni part time per gestire una città come Cefalù. Ci deve essere un impegno costante, continuo, che non può essere nemmeno quello che ha dedicato l'attuale sindaco, che la mattina va allo studio e poi verso l'una, l'una e un quarto va al comune. Questa era una gestione del tipo di amministrare la città che si poteva fare negli anni 90, quando c'era una organizzazione diversa. Il sindaco degli anni attuali deve essere un sindaco, deve essere un sindaco presente che possa guidare la città insieme agli assessori, i cui assessori devono essere monitorati ogni giorno. Noi abbiamo assessori che vengono da Palermo attualmente, che vengono qui due volte alla settimana e che conoscono lo stato delle pratiche e quelle che sono anche gli atti di indirizzo che portano avanti, lo conoscono meno di quanto lo conoscono i consiglieri comunali, ed è evidente che tutto questo non giova alla città. La città in questo momento, per esempio, quanti assessori sanno che la città in questo momento è totalmente al buio e mancano 140 lampade? La strada che abbiamo qui accanto, la via Cavour, per esempio, è al buio da almeno due mesi. C'è un assessore di questa città, di quelli che vengono da Palermo o di quelli che ora magari sono stati presi da altri posti, che conoscono quali sono i problemi anche più banali di questa città, non quelli della soluzione del turismo, quelli della soluzione dei parcheggi, tutto il resto? Non li conoscono perché non li vivono. L'assessore che deve portare avanti i problemi della città con il sindaco devono vivere giornalmente questi problemi accanto ai cittadini, conoscere quali sono i problemi, e concludo, e conoscere i problemi dei cittadini del centro storico come anche di tutte le altre zone, e cercare giorno per giorno di portare questi problemi alla soluzione. Grazie al capogruppo La Punzina. Vincenzo Liberto. Io non so se sono esonerato dalla sua domanda, visto che questo è il mio primo mandato. Voglio dire, anche se un'esperienza pesante, però io la reputo positiva per me stesso, in quanto 5 anni fa, quando ho raggiunto questo obiettivo, probabilmente non avevo neanche conoscenza di quello che potevano essere, per esempio, le materie come il bilancio e altre cose. Oggi posso dire quantomeno di sapere leggere qualche cosa all'interno del bilancio. Prendo questa positività di questa mia esperienza. Però se dobbiamo dirla tutta, è vero che molti di quelli che sono presenti in consiglio li ritroviamo anche nel passato. Non va esonerato da questo anche l'attuale sindaco Guercio, che naturalmente è stato sindaco di questa città e sappiamo tutti come è andato a finire. Poi assessore insieme alla Vicari e oggi attuale sindaco. Quindi credo che la sua domanda andrebbe fatta anche a lui a 360, ricordando anche questo passaggio. Sono d'accordo col dottore Noto che se sindaco deve essere un impegno totale, nel senso che sia un impegno H24, e per la persona sindaco che avremo da qui a poco tempo, e per l'intera giunta che dovrebbe raccordarsi col sindaco in H24 veramente per risolvere in toto quelli che sono i problemi grossi di questa città. Grazie. Carmelo, sì, Mangano. Carmelo Mangano. Grazie. Io vorrei ritornare esclusivamente a quanto chiesto da Mario Macaluso poco fa, cioè da quando ero sindaco io, anche prima, anni 80. Ricordo soltanto che io sono stato eletto nell'83, ho finito la mia esperienza nell'88, a 30 anni di distanza. Perché hanno congelato? Ora sei... non tanto congelato, ho fatto altro. Riguardo i problemi che avevamo 30 anni fa e i problemi con lo stesso nome che abbiamo oggi. Vedi, è soprattutto un problema anche di un discorso anche di nomi. Quei problemi sono problemi che sono andati in evoluzione, sono problemi dello stesso nome ma diversi. Per esempio, negli anni 80 quali erano i grossi problemi di Cefalù? se ben vi ricordate, noi avevamo un problema, un grossissimo problema di viabilità, che era quello che la statale 113 era all'interno della nostra città. Il nostro obiettivo primario fu quello di fare praticamente la circonvallazione, quella che oggi si chiama circonvallazione, e negli anni 86-87 ho dato inizio praticamente, ho avuto allora finanziato il sottopassaggio del cimitero. Quelli erano problemi di viabilità, problemi dell'acqua. Avevamo grossissimi problemi dell'acqua. Abbiamo cercato di discuterli, affrontarli in maniera autonoma. Pochi si ricordano che ancora oggi dietro il castello, dietro la rocca, nella parte messina, c'è un impianto di potabilizzazione piccolo costruito allora dalla Techind. Era per 25 litri di acqua al secondo. Fu attivato per pochissimo tempo, credo nell'87-88, per poi essere disattivato. Per un problema di contrattuale con la stessa ditta. C'era un problema allora del passaggio all'Enel dell'elettricità comunale, del servizio elettrico. Qui mi sono sempre opposto in tutti quei 5 anni, perché era l'unica fonte che permetteva a Cefalù di non attingere, per quanto riguardava allora, come oggi facciamo. Allora c'era pure questo problema di non attingere alla tesoreria, quindi alla scopertura in tesoreria. I problemi erano dello stesso tipo. Avevamo allora il problema, avevamo le nostre solo spiagge libere. Abbiamo iniziato ad allora cercando di, e quindi a totale costo della cittadinanza, la pulizia delle spiagge, non scordiamocelo. Allora i servizi erano quasi tutti a capo dell'amministrazione comunale, incominciando dalla nettezza urbana, servizio idrico, servizio elettrico, cose che si facevano in economia. Avevamo iniziato a parlare di municipalizzate, abbiamo iniziato a parlare allora, non ce lo scordiamo, Cefalù ancora, e in quegli anni allora l'allora sindaco Nino Vazzana mi diede la delega per l'informatizzazione dei servizi comunali. Non esisteva, tutto si faceva a mano. Quindi i problemi sono, però sono stati risolti allora in maniera diversa, anche se hanno lo stesso nome. Cioè il problema del traffico oggi a Cefalù non sarà più quello della nazionale, è una questione interna. Allora sono stati affrontati determinati problemi. Mi ricordo che l'unica cosa che si è fatta allora era il parcheggio multipiano, che poi la soprintendenza ci bocciò. Da multipiano restò un unico piano. I problemi hanno lo stesso nome, ma sono problemi diversi, Mario. Cioè sono problemi che nel tempo si sono evoluti o quantomeno modificati, che sono stati affrontati più o meno nel tempo. Io dico allora, con forse con un po' più coerenza di attualmente. Ma c'era un consiglio comunale, e ripeto, che anche se il sindaco faceva parte anch'esso del consiglio comunale, era capace di agire in autonomia. Ecco, grazie. E allora, Presidente del Consiglio, no? Sì. Presidente del Consiglio. Presidente, lei che ha un potere di sintesi, capacità di sintesi notevolissima, la prego di... Ti assicuro che sarò brevissimo. Io, per rispondere all'amico giornalista, io ho fatto 15 anni di lavoro, prima in consiglio, prima come assessore. Ecco, prima come assessore, poi come consigliere comunale. E sono due settori completamente diversi, perché è inutile che io stia a ricordare le cose che ho fatto da assessore, perché di cose ne ho fatto nel settore della pubblica istruzione, del commercio. Però voglio dire, da assessore è un aspetto, sicuramente, come dire, più fattivo, più attivo, dove si può anche incidere nelle cose che si fanno e che si debbono fare nella città. Da consigliere comunale il discorso è diverso. Io ti porto un esempio soltanto. Noi per centinaia di volte abbiamo votato l'elenco dei beni comunali da dismettere per pagare i debiti che il comune ha, ed è una cosa importantissima, perché noi abbiamo tanti debiti che non riusciamo a coprire. È una delle cause principali della non approvazione del bilancio, è proprio questa mancata copertura dei debiti. Noi però abbiamo dato atti di indirizzo a non finire, abbiamo votato proposte di delibera a non finire, però l'amministrazione quanti beni ha venduto? Quante gare ha fatto? Dico, fino al giorno 19 c'erano 3-4, mi pare, beni da mettere in vendita 19 dicembre, e mancavano 3.000 euro per fare bandi. Di fronte a queste cose il consiglio comunale che potere ha? Non può amministrare il consiglio comunale. Il consiglio comunale può suggerire, può ammonire, può fare diffide, atti di indirizzo, tutto quello che vuoi, può provare gli strumenti, però l'amministrazione deve provvedere poi a metterli in esecuzione. Questo è il vero problema. Nicola Pizzillo, l'Altra Cefalù. Sì, un saluto dal blog dell'Altra Cefalù, e passo subito alla domanda. Allora, il sindaco ha lamentato la scorsa settimana, proprio da questi microfoni, che la sua azione amministrativa sia stata imbrigliata dall'intero consiglio comunale. Ritenete fondate queste sue considerazioni o pensate che il consiglio abbia supplito ad un voto di proposte da parte dell'amministrazione attiva? Grazie Nicola anche per la brevità della domanda. Sì. Chi risponde? Ecco, iniziamo da Nicola Noto. A me dispiace che il sindaco abbia fatto questa considerazione, perché mi viene subito di rispondere che non sa quello che dice, in quanto il consiglio comunale nelle sue discrasie, nelle sue contraddizioni che abbiamo riscontrato oggi, ha dato delle direttive ben precise a questa amministrazione. Direttive che sono state disattese completamente da quell'amministrazione. Io ricordo a me stesso e anche agli altri del Consiglio Comunale, le elezioni sono state nel mese di maggio del 2007, ebbene, già a luglio del 2007, dopo aver individuato il problema fondamentale che era il dissesto, la discrasia finanziaria, il risanamento quindi finanziario del comune, il consiglio comunale all'unanimità aveva votato delle direttive precise alla giunta. Erano 11 punti di fondamentale importanza che poi tra l'altro li abbiamo riscontrate in quella che era la deliberazione della Corte dei Conti. Avevamo individuato i punti su cui agire e cosa fare. Ebbene, nessuno di quei punti l'amministrazione Guercio li ha portati a termine, nessuno di quei punti. Più volte il Consiglio Comunale ha dato delle direttive a questa amministrazione e tutte le volte le direttive date dal Consiglio Comunale sono state disattese. Fino all'ultimo, nel 2010, nell'equilibrio di bilancio, in cui noi continuavamo a dare la ciambella di salvataggio a questa amministrazione, bene, quella amministrazione non ha saputo raccogliere quella ciambella di salvataggio che il sottoscritto e altri consiglieri comunali abbiamo lanciato per salvare questa amministrazione. Ebbene, ce l'ha rifiutato questa ciambella. Perché non spiega ai cittadini perché non ha non ha eseguito quelle che erano le direttive del Consiglio Comunale, i consigli del Consiglio Comunale, ed erano i consigli giusti, consigli che tutti i giorni la Corte dei Conti rimprovera a questa amministrazione. Quindi prima di fare certe affermazioni si dovrebbe fare un esame di coscienza serio e poi si può cominciare a parlare. Carmelo Mangano, restiamo in zona così, in zona... Sì, sì, molto, molto brevemente. Ma la domanda fatta dalla, scusami, dall'altra Cefalure, che cosa riguardava? Mi ero distratto, scusami. Praticamente se c'era stato un voto da parte del Consiglio Comunale oppure dell'amministrazione. Guarda, io dico una cosa. Io non credo, non credo. Non credo, io non credo che le colpe stiano, come ho ripetuto poco fa, soltanto da una parte. Io penso che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità. Poco fa il consigliere Lapunzina, per esempio, stava riguardava il fatto delle lampade, no? Che non si cambiano a Cefalù. No, no, piccolo problema. 137 sono sì, sì, 137 nella città. Però pochissimi cittadini sanno che oggi non è possibile farlo. Cioè, con un bilancio non approvato e col fatto che oggi l'amministrazione comunale può solo intervenire per quanto riguarda la spesa esclusivamente nei punti in cui ci può essere danno certo per l'amministrazione comunale. Scusami. E poi potrei anche rispondere tu, su questo non ci sono dubbi. E con ciò io dico una cosa. Certo, il Consiglio Comunale ha dato, come giustamente poco fa diceva il consigliere Noto, allora eravamo 13 in maggioranza, aveva dato delle precise indicazioni perché la giunta si potesse muovere in determinati ambiti, che erano quello soprattutto della rivisitazione di quella che era la macchina amministrativa del comune per renderla più efficiente, ma è con tutta una serie di problematiche, perché guardate, una delle palle che ci portiamo al piede come città di Cefalù è proprio la questione del debito, di questi debiti, molti dei quali, guardate, che si sono formati indipendentemente dall'amministrazione comunale. E faccio riferimento, tanto per essere chiaro, magari a solo tre di questi. EGV Center, EGV Center, all'area cosiddetta parlato dell'ospedale, che sono quelli più grossi in questa faccenda, e all'altro debito che praticamente ci riportiamo ora avanti, erano tre i grossi debiti che avevamo come buono. Scusate, ma siccome sto malissimo, quindi dovete pure scusarmi se non riesco spesso. Cioè, sono dei debiti che questa città, indipendentemente dalla sua volontà, ha avuto. Le GV Center, non scordiamocelo, quel debito di circa 3 milioni di euro, 3,6, grazie Saro, viene praticamente prodotto nel momento in cui il pretore di Cefalù ferma determinati lavori. Questi ritornano all'amministrazione comunale come danno. La stessa cosa viene fatto per le case popolari, con gli espropri, la stessa cosa viene fatto con l'esproprio dell'ospedale, in cui non è, per esempio, per l'ospedale che è la regione, che è l'ente finanziatore di delle determinate opere, e dove c'era previsto pure il piano d'esproprio, nella stessa questione come degli ACP, degli alloggi popolari. Tutto questo ricade oggi, non dico sull'amministrazione comunale, ricade sulla gente di Cefalù, che è la cosa paradossale di questa dell'attività amministrativa complessiva che si ha, io dico in Sicilia, perché forse di questi casi solo in Sicilia ne possono capitare. Fatevi un po' i conti, sono circa, fra tutte e tre questi interventi, sono circa 8 milioni di euro. 8 milioni di euro che si sono formati indipendentemente dalla volontà di chi amministrava, cioè ci sono piovuti queste situazioni dall'alto. Quindi riflettiamo anche su queste, su questo, sulle difficoltà che un'amministrazione si trova per fatti che direttamente non dipendono dall'amministrazione stessa. Grazie Carmelo, Rosario Lapusena e a seguire Vincenzo. No, la cosa simpatica è quella che Carmelo Mangano ha chiesto a Nicola Pizzillo di avere ripetuto la domanda, diciamo, per capire qual era la domanda, poi magari la risposta era su tutt'altro tema. Se vogliamo parlare dei debiti fuori bilancio, Carmelo, ne possiamo parlare. Il debito GV Center è stato pagato nel 2006, gli attuali debiti fuori bilancio che ammontano a 10.154.000, non presenta tra questi il debito fuori bilancio parlato e GV Center. Ma la genesi dei debiti fuori bilancio è qualcosa di molto complesso. Io l'altro giorno ho parlato con il direttore di Cefru News, Mario Macaluso, dicendo che ero disponibile ad affrontare debito su debito quando si è formato e anche il tempo in cui si è formato e anche le motivazioni. La domanda mi pare che era diversa. Il Consiglio Comunale ha in un certo senso impedito al sindaco di amministrare in questa città. Questo è degno di campagna elettorale, una dichiarazione di questo tipo da parte del sindaco fa parte di quel repertorio di dichiarazioni che il sindaco utilizzerà in campagna elettorale per dire che la colpa non è sua, che lui è stato bravo, bravissimo ad amministrare in questi anni, che ha condotto un'azione politica brillante e che il Consiglio Comunale lo ha imbrigliato. Non dice il vero. Se il sindaco avesse attuato almeno la metà di quello che il Consiglio Comunale ha deciso, deliberato in Consiglio Comunale, tutto questo discorso non ci sarebbe, perché per esempio l'anno scorso, lo ricordava Nicola Noto, ci sono stati 8 consiglieri comunali che hanno dettato una serie di indicazioni, io lo chiamo programmazione economica e finanziaria, precisa, dicendo poi che se tutto questo non si verificava, loro stessi avrebbero chiesto il dissesto finanziario al Comune di Cefalù. Ebbene, nessuna di queste indicazioni, sono oltre 10 punti, il sindaco ha tenuto in considerazione. Ora, quale dichiarazione di questo tipo il Consiglio ha imbrigliato? Noi abbiamo chiesto più volte la convocazione del Consiglio Comunale, abbiamo chiesto che il sindaco venisse a relazionare su problemi interessanti, importantissimi su questa città, sulle strisce blu, sulla vicenda del Giglio San Raffaele, sulla quale vicenda chiederemo ancora una volta che venga a relazionare, perché è rappresentante anche alla luce di quello che sta succedendo. La Fondazione Giglio San Raffaele è una fondazione che nasce dall'insieme di alcuni soci che sono il San Raffaele di Milano, che non è più San Raffaele di Milano ma è passato alla San Donato, e dal Comune di Cefalù, dalla Regione Siciliana, ed è evidente che vogliamo sapere se questo ospedale, che deve servire a ospedale per il territorio, e qual è il futuro per questo ospedale. Il sindaco lancia certe volte degli spot come quelli che ha lanciato qui giorno 5 dicendo che lui ha salvato il punto nascite, poi a scoprire che due giorni prima non sapeva nemmeno che era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la chiusura del centro nascite. Per cui non stiamo alla dichiarazione di una persona che è in campagna elettorale, che la butterà sempre su quelle degli altri. Potrebbe dire anche il sindaco: anche tu sei in campagna elettorale, perché anche tu sei candidato. Io qui vengo a relazionare sull'attività di Consiglio Comunale. Vengo a dire che il Consiglio Comunale a ottobre del 2010, a settembre del 2010, ha approvato un importantissimo regolamento che noi abbiamo sempre sollecitato dall'amministrazione Vicari. È il regolamento affidamento di beni, all'interno del quale abbiamo messo un regolamento di un'importanza assoluta, all'interno del quale abbiamo messo come gestire la Rocca di Cefalù, gestire la Rocca di Cefalù in forma autonoma con la collaborazione delle associazioni ambientaliste locali. Abbiamo scritto pure come gestire la fondazione, gestire, diciamo, il teatro comunale, costituendo una fondazione per il teatro comunale e approvando un regolamento che non è mai pervenuto in Consiglio Comunale. Ora bene, il sindaco cosa ha fatto? Mettendo a reddito anche l'Ottagono Santa Caterina, cosa ha fatto di quello che ha deciso il Consiglio Comunale in questi anni? Non ha fatto nulla, e non ha fatto nulla per tantissime altre indicazioni che il Consiglio ha dato. Il Consiglio ha approvato in uno dei primi atti il regolamento per la vendita dei beni, era il novembre del 2007, ha messo in condizione l'amministrazione comunale di fare delle gare con la collaborazione dell'UTE, ufficio tecnico erariale, e con quello dell'ufficio tecnico, di fare delle gare per risanamento economico e finanziario dell'ente. Siamo arrivati al 2011, al 2012, il cerino in mano resta nelle mani del sindaco, la situazione è disastrosa nel comune di Cefalù, e al di là delle chiacchiere che dice Nicola, che dice Carmelo Mangano, quando mette insieme, concludo, i debiti delle GV Center con quelli attuali, io vi devo dire che quest'anno, Carmelo, c'è un dato al quale tu devi fare riferimento. La Corte dei Conti ha chiesto al Comune di Cefalù quanti debiti hai pagato nell'anno 2011. Il Comune di Cefalù risponde 187.000 euro. Quanti se ne sono fermati nell'anno 2011? 347.000 euro. Dunque, se già nell'anno 2011 la bilancia pende nella formazione dei debiti e non nel pagamento dei debiti, questo la dice lunga sul fatto che l'amministrazione non ha un programma per come risanare questo comune e che consegna all'amministrazione futura una situazione così disastrosa, peggio di come l'ha avuta dalla precedente amministrazione. Vincenzo Liberto. Grazie. Io non posso che attenermi a quello che diciamo la linea intrapresa dai miei colleghi consiglieri, perché effettivamente questo consiglio comunale forse ha scelto sin dall'inizio quella che era la strada più auspicabile, cioè quello di tentare di risanare o di pagare i debiti che il comune aveva e continua ad avere. Rispetto a tutto questo, ricordo, non per riconfermare quello che è stato già detto, che molte sono state le occasioni in cui il Consiglio Comunale ha tracciato quello che poteva essere il percorso che questa amministrazione poteva intraprendere per la risoluzione, soprattutto quella del risanamento dei debiti di questo comune. Io mi ricordo anche qualche anno con atti appunto votate all'unanimità, fra cui per esempio all'occasione di equilibrio di bilancio, io per esempio il consigliere Lapunzina, nonostante eravamo in posizioni diverse, abbiamo presentato un maxi emendamento che ha raccolto, se non ricordo male, me lo può confermare, circa 1.400.000 euro a fronte dei debiti fuori bilancio, nonché non ultimo quello che è stato, diciamo, l'emendamento agli equilibri di bilancio presentato, quello che si chiama emendamento calabrese, che dava dei punti ben precisi che dovevano essere assolti così entro il 30 aprile del 2011. Ripeto, tutto questo non è stato fatto. Qualcuno l'altra volta asseriva, io non è che ce l'ho con le vecchie perché è un grande amico, però apertamente non ha manco parlato. No, apertamente l'altra volta asseriva il fatto di utilizzare un termine di cui io non sono d'accordo, che è quello che il sindaco è ostaggio del Consiglio Comunale. Mi sembra una parola abbastanza pesante da utilizzare, e si parlava in quel momento della statua, è sempre stato lui ostaggio di se stesso, quindi non del Consiglio Comunale, che ha cercato sempre di portare avanti quelle che sono le prerogative in rappresentanza di quello che è il mandato che ognuno di noi ha. Si parlava della statua di Ruggero che non è stata posta. Io, per quanto mi riguarda, personalmente ero propenso a disporla al molo, così come era stato previsto anche dalla regione, perché sussistevano anche i permessi della soprintendenza, eccetera eccetera. Però rispetto al dire ostaggio sulla scelta fatta di poter che questa amministrazione ha fatto successivamente, dicendo che avrebbe portato in consiglio delle proposte al Consiglio Comunale per poter optare dove mettere questa statua, autonomamente, senza avere neanche qualcosa di scritto da parte dell'ufficio tecnico, ha fatto un abuso creando quella cementificazione all'interno della villetta, ripeto, autonomamente. Quindi il fatto di essere ostaggi mi sembra un poco esagerato rispetto però alla questione della statua di Ruggero. Ecco, grazie. Peppe Livecchi. No, aggiungo un altro. Capisco capisco e condivido la sua posizione, perché essendo primo cugino dell'assessore Patanella, naturalmente gli venne naturale difendere la parte, quindi questa. E allora no, Peppe, aspetta, abbiamo ancora il presidente Barracato, deve rispondere brevemente, e poi ovviamente. Sì. Allora, pazienza, solo due minuti, perché io sarò molto breve. Molte delle argomentazioni che sono state riferite dai miei consiglieri, dai miei colleghi consiglieri comunali, le condivido in toto, quindi è inutile che io ripeta sempre le stesse cose. Voglio aggiungere solo un piccolo particolare. Quanti assessori ha cambiato questa amministrazione in 5 anni? 24 credo. Quanti segretari comunali generali sono stati cambiati in questo periodo? Quante volte ci siamo trovati nelle condizioni di non poter convocare il consiglio comunale perché non c'era nessuna proposta di delibera? Quante volte le abbiamo articolate noi queste proposte di delibera? Cioè, questo significa che il consiglio comunale ha voluto collaborare con l'amministrazione, ha cercato di dare una mano all'amministrazione, e quindi dove sono le responsabilità del consiglio comunale? E allora, Peppe Livetti, vorrei ancora una volta torno a ribadire questo concetto, vorrei pregare i capigruppo di essere quanto mai succinti, grazie ancora. Peppe Livecchi, direttore Madonie Live. Perdonatemi, ma io devo prima fare un breve inciso. Intanto devo salutare i radioascoltatori, poi devo fare questo brevissimo inciso. Mi spiace che il consigliere Liberto non si ricordi, per esempio, come io sia stato, in questo credo che Saro me ne possa dare atto, così come anche il dottore Noto me ne potrà dare atto, come io sia stato uno dei promotori, per carità, così riempiamo tutto lo schermo, uno dei promotori della candidatura di Salvatore Curcio alle ultime elezioni, nonché uno delle persone che l'ha appoggiato fino alla fine, quindi credo che questo me ne dobbiate dare atto. Poi le mie parentele, questo sono un discorso differente, così come non si può scordare il consigliere Liberto, che adesso ha detto, che poc'anzi ha detto, che il sindaco Guercio lo conoscevamo tutti quando già era stato amministratore di questa città. Io voglio sapere come lui abbia scelto di candidarsi, come no, quando abbiamo parlato delle responsabilità delle amministrazioni precedenti. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, e credo che tutti ce la dobbiamo assumere. Dico, mi sembra strano che il consigliere Liberto si sia poi candidato come consigliere in una lista che appoggiava il sindaco Guercio, se già conosceva il male al quale andavamo incontro. Andiamo alla domanda. Io volevo iniziare diversamente. Io volevo citare uno dei geni della televisione, Mike Bongiorno, che iniziava le sue trasmissioni dicendo allegria. E io in questa maniera volevo iniziare, vi spiego anche perché. Perché nella conferenza con i capigruppo dello scorso anno, mentre il dottore Noto inneggiava un governo di salute pubblica fra una nuova sfiducia che si doveva lanciare o che non si doveva lanciare, questa è storia di questo paese, lo so che i cefaludesi non hanno memoria, mentre dico si inneggiava a questo, io dissi che di fatto si apriva la campagna elettorale e che ci preparavamo ad un anno e mezzo in vista delle elezioni. Allora cito di nuovo Mike Bongiorno, che durante le sue trasmissioni diceva colpo di scena. E il colpo di scena c'è stato perché, non tanto per le dimissioni dell'assessore Barranco di ieri o dell'altro ieri, ma perché oggi il consigliere Noto ha detto di fatto che l'MPA e l'UDC sono alleati per la nuova campagna elettorale, perché se il gruppo Cefalù cambia, non si scioglie e continua a portare, potrei anche fraintendere, e continua a portare avanti un progetto in seno al Consiglio Comunale, vuol dire che l'MPA e l'UDC sono alleati. Così come è bellissimo vedere che Saro La Punzina abbia rotto gli indugi prima di tutti gli altri, decidendo di candidarsi. Oggi apprendo da Carmelo Mangano che i candidati a sindaco sono 6 o 7 in questa città, probabilmente sarà il dietro le quinte. Mi volevo candidare pure io, perché mi sarebbe piaciuto avere Saro La Punzina come assessore al bilancio, perché guarda che coi numeri è la fine del mondo. Purtroppo lui è candidato sindaco, non mi posso candidare io, e quindi faccio un dietro fronte rispetto alla mia candidatura a sindaco. Ma dico, al di là di queste battute, per ancora una volta si evince non tanto che il sindaco Guercio sia ostaggio del Consiglio Comunale, perché poi una frase estrapolata da un contesto può essere assoggettata a tantissime interpretazioni, ma ancora una volta capiamo, guardando al futuro, che questo Consiglio Comunale ha un partito unico, tolto il PD e tolto qualche esponente singolo che aderisce a qualche partito, ed è il partito dei consiglieri comunali. Perché se a 4 mesi dalle elezioni non usciamo con i candidati sindaco, ci sono rotture interne alle coalizioni amministrative, vuol dire che ancora una volta i partiti non stanno facendo il loro lavoro. E allora io adesso vi faccio la domanda legata, ho fatto una disamina, perdonatemi, Peppe, vi faccio una domanda legata all'attività del consiglio. Sì. Quella è una constatazione che poi Peppe, il consigliere Noto, potrà anche decidere di smentire. Peppe, abbiamo il piacere di fare un secondo giro. Vi pongo una domanda. Bilancio, questo consiglio come si pone, ecco, di fronte alla non approvazione del bilancio? Ecco, prima di passare il microfono, permettete, perché il titolo è molto intrigante, l'autore personalmente lo stimo tantissimo e lo stimiamo tantissimo. Le radici e le pietre, studi e altro su Cefalù Antica. Forse dovremmo proprio partire dalle pietre e dalle radici. Emanuele Giuseppe Misuraca, hanno il piacere di invitarla alla presentazione del libro di Antonio Franco, Le radici e le pietre, studi e altro su Cefalù Antica. Interverranno la professoressa Pieranello, il professore Roberto San Martano e il professore Daniele Tumminello. Sono 2 docenti dell'Università di Palermo e un dottorando di ricerca Università di Palermo. Domenica prossima, 22 gennaio 2012, ore 17:30, Sala delle Capriate, Municipio di Cefalù, Piazza Duomo. Abbiamo fatto con piacere questo annunzio, perché veramente abbiamo delle persone che nella nostra città, soprattutto come colleghi, meritano, come docenti meritano tantissimo. Dottore Noto, in bocca al lupo, professore Franco. In bocca al lupo a me. No, a lei, dottore Noto, gliel'abbiamo fatta incondizionatamente. Gli in bocca al lupo. Prego. Certamente la domanda è cattiva. È cattiva in quanto nel sostenere un'evidenza nasconde il vero motivo della risposta che ho dato io poc'anzi. Perché ho detto che Cefalù cambia indipendentemente dall'appartenenza politica, rimane come gruppo. Cioè andare a prevedere il futuro, questo è nelle mani di Dio, caro giornalista, quindi no, non lo sappiamo. Certamente c'è un programma, certamente abbiamo delle idee, certamente usciremo con qualche soluzione, usciremo, ma non è questo, diciamo, il problema che lei ha voluto mettere il dito chissà dove. Smentisce l'apparentamento. Allora, riguardo invece alla seconda domanda, che mi sembra invece più pertinente per Cefalù e non la prima, perché a Cefalù non gliene frega niente ai cefalutani interessa la soluzione dei problemi, non con chi io mi unisco, non con chi io faccio alleanze, eccetera. Interessa ai cefalutani, interessa il programma, interessa i problemi che si individuano, ma interessa soprattutto le risposte che si danno a quelle problematiche. Riguardo al bilancio, il bilancio è intrattabile. Io la prima sera, quando è stato posto in discussione questo bilancio, io ho presentato una pregiudiziale spiegando i motivi validi per cui quel bilancio non poteva essere non votato, ma neanche trattato. Il Consiglio Comunale, nella sua sovranità, ha deciso che si poteva trattare. Si poteva trattare e l'ha trattato. Ma la conclusione è stata poi, in fondo, quello che io avevo previsto in quella pregiudiziale. Quello non è un bilancio da portare in Consiglio Comunale. Quello non è un bilancio da trattare, in quanto mancavano i presupposti fondamentali per una sua discussione in Consiglio Comunale. Grazie dottore Noto. Rosario, ci chiedono brevità e per cui brevità. Andiamo alla risposta. Vorremmo fare un altro giro di domande, grazie. Io prego. Sono già candidato, per cui potremmo parlare, esatto, del tuo assessorato allo sport, casomai. Allora, per quanto riguarda il bilancio, quando si parla di bilancio di previsione, si deve parlare all'interno dell'annualità del bilancio, e per cui aveva magari c'era magari una motivazione per approvarlo a settembre, a ottobre, a novembre. Quando si presenta un bilancio il 29 novembre, cioè il giorno prima che finisce l'anno, due giorni prima che finisce l'anno, è un bilancio che non ha assolutamente la possibilità di essere approvato, in quanto non contiene all'interno quelle che sono dei debiti fuori bilancio che ormai provengono da sentenze, lodi arbitrali. Purtroppo non tutta la gente ci può capire su questi argomenti. Allora è evidente che quel bilancio non poteva essere approvato. Che cosa accade? Perché questo è quello che tu chiedi. Accade che io parlerei di bilancio 2012. È più facile, l'ho già detto all'assessore al bilancio, la signora Volpe Carmelina. Perché non parliamo di bilancio 2012? Perché non mettiamo la città in condizione di approvare subito un bilancio 2012? Perché del bilancio 2011 dobbiamo ormai fare soltanto un consuntivo. C'è stata una gestione dell'anno 2011 fatta in esercizio provvisorio. È evidente che verrà fatto un rendiconto di quell'anno, ma non si potrà più parlare di bilancio 2011 nel 2012, perché l'ordinamento degli enti locali parla di previsione e parla di un rendiconto quando l'anno è ormai finito. Per cui siamo nel 2012, possiamo parlare di rendiconto per il 2011 e parliamo subito del bilancio 2012 e diamo alla città un nuovo bilancio per quelle esigenze che devono immediatamente essere, diciamo, risolte. Carmelo Mangano, in un minuto. No, molto velocemente. Un minuto, Cosa succederà del bilancio? Il bilancio praticamente sarà praticamente mandato, il Consiglio Comunale sarà diffidato dal commissario ad acta all'approvazione di questo bilancio. Ho parlato pochi giorni fa con il commissario, per cui questo bilancio andrà in Consiglio Comunale. Se non l'approverà il Consiglio una volta che i revisori daranno il parere, beh, allora ci saranno delle conseguenze. Però ancora dobbiamo aspettare la parte revisoria. Grazie. Vincenzo Liberto, un minuto. Vincenzo. Vincenzo, un minuto. Io non ho 60 non secondi. Non posso rispondere né alle vecchie in un minuto né. No, vabbè, devo scegliere cosa rispondere. Allora, no, praticamente dico, sono fatto le vecchie che diceva io lo conoscevo, io non ho detto questo, può riascoltare la questione. Poi sulla difesa dell'assessore Patanella è normale, per chi c'è l'aspetto affettivo fra parenti viene naturale. E sulla questione bilancio invece ho condiviso il discorso di non votare questo bilancio perché non poteva essere votato così come si è espresso anche il commissario ad acta che è incaricato all'approvazione di questo bilancio, qualora, come è successo, non fosse stato approvato il bilancio. Il bilancio contiene delle difformità, fra cui debiti fuori bilancio da sentenze non riconosciute, altri 4 milioni di debiti, eccetera, eccetera. Manca al bilancio allegato praticamente quello che per me sembra necessario e che è previsto dall'articolo 172, che è il consuntivo 2009, che non è allegato, più altre cose che dovrebbero essere previste all'interno del bilancio, fra cui i bilanci di dove il comune ne fa parte, per esempio il bilancio del San Raffaele o del Lato. Grazie. Dico, mancando questo è normale che grazie, questo bilancio non poteva grazie essere approvato. Riccardo Gervasi, un altro giro velocissimo. Riccardo, Un minuto i capigruppi per rispondere. Prego Riccardo. Una stringa vera e propria. Se nel 2010 i revisori hanno espresso un parere negativo in merito alla delibera di salvaguardia degli squilibri, se nel 2011 gli stessi revisori si sono espressi negativamente per quanto riguarda l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 e se questa città è a rischio dissesto finanziario, evidentemente ci devono essere dei responsabili. La domanda è proprio questa: chi sono i responsabili? Di chi le responsabilità? E allora iniziamo Saro. Evidente che è stato detto nel corso della trasmissione è stato evidenziato se a novembre 2007 si è deciso di risolvere i problemi del bilancio vendendo i beni del comune e si è approvato in consiglio comunale il regolamento. Sì, prego Saro, scusiamo. Chiediamo scusa ai radioascoltatori, c'è stato un blackout. Allora, se a novembre del 2007 il Consiglio Comunale ha posto in condizione il sindaco di vendere i beni perché quella era l'unica strada per risolvere i problemi economici e finanziari dell'ente, se ogni anno il Consiglio Comunale ha approvato il piano di azione dei beni e tutto questo non è stato diciamo portato avanti l'amministrazione perché pochissime gare sono state fatte e la situazione nel 2012 è quella che noi ci troviamo dinanzi, per cui la situazione è disastrosa, le responsabilità non possono che essere, sono evidentissime, dell'amministrazione attiva e di chi ha amministrato in questi anni con la condivisione del vice sindaco che ultimamente in questi giorni cerca magari di farsi alla larga da Pippo Quercio, pensando che magari lui vorrebbe crearsi una verginità al ridosso delle elezioni. Le responsabilità sono del PDL, sono del sindaco Quercio e sono da qualche anno, perché c'è tutto dentro l'amministrazione, del cosiddetto famoso partito di Romano Avanti, del PD, il cui rappresentante Cefalù non è che l'ingegnere Carmelo Mangano. Ecco, Nicola Noto. Posso dire la responsabilità indubbiamente. Un minuto, ti prego. Di chi ha amministrato, perché questa città purtroppo negli anni, non faccio un preciso riferimento a periodi ben precisi, ma negli anni è stato, diciamo, amministrato, non dico allegramente, ma quasi. C'era un procuratore della Repubblica di Termini Imerese che una volta ebbe a dire che la legalità è un optional a Cefalù, si è sempre amministrato un po' allegramente, questo è il vero motivo del disastro finanziario. Carmelo Mangano, un minuto anche per te. Sì, molto, molto velocemente. Guardate che uno dei grossi problemi era quello dell'alienazione dei beni comunali. Fin da quando è stato fatto il regolamento, uno dei nostri crucci è stato quello delle case popolari, delle cosiddette case popolari che sono alloggi parcheggio del comune di Cefalù. In quella situazione dovevamo modificare immediatamente dopo averlo approvato quel tipo di regolamento per passare alla vendita degli alloggi popolari. Mai stato fatto dal Consiglio e mai stato più ripreso. Anche se ci siamo resi conto nel momento in cui lo stavamo approvando che doveva essere modificato. Secondo, un grossissimo problema. Abbiamo demandato tutto all'UTE per la valutazione dei beni. Perché purtroppo, devo dire, i nostri uffici comunali, almeno nella prima parte, si erano rifiutati per la valutazione dei beni stessi. Ora dire questo, che è responsabilità assoluta del sindaco Quercio, il sindaco Quercio avrà le sue responsabilità, però ripeto, il Consiglio Comunale ha avuto la sua buona fetta. Grazie Carmelo. Presidente Barracato. Io rivendico la salute e sanità del Consiglio Comunale a queste responsabilità. Io invece continuo a dire, insieme ai miei, quello che i miei colleghi hanno detto già abbondantemente, è che ci sono delle responsabilità invece grossissime in chi non ha né voluto né saputo accettare tutto quello che il Consiglio Comunale ha suggerito in questi 5 anni. Sicuramente ci sono state, dal documento presentato dal consigliere Noto alla salvaguardia di bilancio, quando io, Noto, Calabrese ed altri abbiamo scritto, indicato 10 punti con cui Mangano compreso, con cui abbiamo Mangano, ti risulta che sia stato fatto uno solo dei punti che noi abbiamo? Ecco, e allora basta. E allora Vincenzo, prego. Vincenzo Liberto, poi il direttore di Cefalù News. Io, è inutile Cefalù, che rimarchi quello che è già stato detto sull'argomento, però quando io voglio ricordare che un bilancio arriva in consiglio il 29 di dicembre, dico, mi sembra logico non dire altro, perché altro non c'è da dire. Rispetto a tutto questo, anche il fatto che il Consiglio Comunale abbia sempre sollecitato questa amministrazione a portare avanti le problematiche, anche quella del bilancio in Consiglio, anche il Presidente del Consiglio, non ultimo rispetto all'ultima proposta di deliberazione per quanto riguarda il bilancio, si è affrettato a portarlo in Consiglio Comunale. Io penso che più di questo il Consiglio non possa fare. Grazie. Prima di passare prego la parola a Mario Macaluso, che deve fare la sua domanda, vorrei anch'io dire una piccola cosa, riprendendo anche il discorso che ha fatto Peppe Livecchi, cioè che lui parlava per la verità di ostaggio Consiglio Comunale, ostaggio del Sindaco, e così, o viceversa, il Sindaco ostaggio del Consiglio Comunale. Io non uso questa stessa terminologia. Parlava anche di allegria, anche se per me è un'allegria funeraria, però dico io, Voglio aggiungere una cosa, che non c'è stata in questo discorso una partecipazione attiva per quanto riguarda questo discorso che ha fatto un pochettino lui dell'ostaggio. C'è stato in realtà, io ho visto personalmente, voglio riportare la domanda che ha fatto l'uomo della strada, mi ha fatto qualche giorno addietro, ma professore, ma perché se c'è questa mancanza di sfiducia, se c'è questo discorso che tutti, anche qui c'è questa sfiducia nei confronti del primo cittadino, ma perché non l'hanno mandato a casa? Professore, non facciamo che ci conviene pure a Idri, che resti la situazione com'è, in modo che continuano a comandare, come è successo per la statua di Re Ruggero. Ecco, Mario, prego. Sì, ma rispondete, diciamo, anche che, no, mi ha rubato la domanda, perché io parto da questo presupposto. Sì. Se il sindaco dice che la colpa è del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale dice che la colpa è del sindaco, se 16 consiglieri sono contro il sindaco, mi devono spiegare come 16 consiglieri non sono capaci di mandare a casa il sindaco. Nicola Noto. No, io... Nicola Noto. Velocemente. In effetti è vero. Questo Consiglio Comunale non vuole mandare il sindaco Guercio a casa. Perché nel momento in cui si sapeva che la mozione di sfiducia non sarebbe passata in Consiglio Comunale, e io ho pregato i promotori di aspettare che non c'erano le condizioni, e si sapeva matematicamente che quella proposta non sarebbe passata in nessun modo, l'abbiamo portato per una questione di immagine, di dire noi l'abbiamo fatto, ma il Consiglio, ma la volontà precisa era quella di non mandarlo a casa, perché successivamente in questo anno 2011 c'erano i numeri per mandarlo a casa. E come se non c'erano i numeri, perché non è stata presentata? Io già avevo messo la firma e non è servito a niente. Rosario Lapunzina. Allora, Nicola è uno di quelli che non ha firmato la mozione di sfiducia di dicembre 2009, mi dispiace che parla in questo modo, perché a dicembre 2009, quando è stata presentata la sfiducia, c'erano 9 consiglieri più il presidente Bracato 10, e una dichiarazione che è video registrata e che manderemo su YouTube dell'avvocato Corsello, che dice che avrebbe votato in aula e ha sfidato il consigliere Calabrese in aula quel giorno, dicendo presentate la sfiducia che io la voterò, io e il mio gruppo. Il suo gruppo era di quello di Scialabba, Sidele. Questa è la storia, questa è la storia, ed è la storia del fatto che quella sera i voti del PDL dovevano servire a mandare a casa Pippo Guercio, ed erano 10 più 3, 13. Quella sera Pippo Guercio si è accordato con Roberto Corsello, chi lo aveva lottato durante gli anni in campagna elettorale è andato a fare il vice sindaco. Si tratta di poltrone, si tratta di proprio cose becere che non hanno niente a che vedere con la politica e con la coerenza. Quando uno perde l'elezione deve portare rispetto agli elettori che lo hanno messo all'opposizione, che lo hanno destinato all'opposizione. Il PDL in questa città ha perso le elezioni con il sindaco Dolce e doveva rimanere coerentemente all'opposizione. Invece, per far fare un giro all'avvocato Roberto Corsello e a qualche suo amico ancora da vice sindaco, noi altri abbiamo messo la città in una condizione di ingovernabilità, perché si è creato tutto quello che si è creato all'interno del Consiglio Comunale, e per cui io lezioni per come sono state presentate le mozioni di sfiducia non le prendo, perché tra parentesi voglio ricordare che prima di questa mozione di sfiducia, e questo mi dispiace che Mario Macaluso non l'ha ricordato, però lui se lo ricorda perfettamente, il Partito Democratico ha presentato altre due sfiducie. Noi abbiamo presentato tre sfiducie in totale al sindaco Guercio, e le sfiducie si presentano non come si dice, con poi parlandone in un modo postumo, senza avere firmate quelle che già sono depositate al Presidente del Consiglio. Le sfiducie si presentano con la firma, nome e cognome. Ecco, coloro i quali possono parlare oggi di aver avuto l'intenzione di sfiduciare il sindaco sono coloro i quali l'hanno firmata. Quelli che non l'hanno firmata penso che dovrebbero astenersi da questo spot. Vincenzo Liberto. Tocca a me, visto che Mangano si è allontanato, perché sì, non aveva più voce per continuare l'intervista. Sì, Mangano ha salutato il... La stessa domanda che i cittadini fanno al dottore Lombardo, me la sono posta pure io, semplicemente anche nell'ultimo periodo, visto che tutti ci dichiariamo all'opposizione, pochi sono rimasti quelli fedeli al sindaco, fra cui il consigliere Mangano, però nessuno parla, diciamo, di visto che i numeri ci sono, di mandare a casa questo sindaco. Questa, ripeto, è una domanda che mi sono posto pure io. È normale che io ho partecipato alla prima perché ritenevo, come ho detto poco fa, che essendosi concluso il programma elettorale del sindaco Guercio, l'unica opzione era quello di andare a casa, fra cui ho posto la mia firma all'interno di quella che era la delibera di sfiducia. E purtroppo il sindaco Guercio rimane in questa posizione solo ed esclusivamente perché l'avvocato Corsello ha ritenuto di cogliere l'opportunità di andare a fare il vice sindaco, il cosiddetto salto della quaglia. Grazie Vincenzo. Presidente, Daniele Tumminello a seguire. Su questo non credo di dover spendere molte parole. I risultati sono stati chiari. 10 a 10, 10 consiglieri, 9 per l'esattezza, più io che mi dovevo aggiungere dopo se si arrivava a 12, quindi metà contro il sindaco, metà con il sindaco. Questa è stata la posizione che su questo non credo che su ci quei numeri non c'era nulla. Daniele Tumminello, l'altra Cefalù. Velocissimamente, vista l'ora, sì, il pranzo che è imminente per tutti. Abbiamo parlato del passato e di quello che è stato questi anni, le questioni anche, diciamo, molto più addietro. Io adesso farò una domanda che guarda al futuro, da cui diciamo pretendiamo, come l'altro Cefalù, una risposta, diciamo, individuale dai presenti. Sì. A parte Rosario Capunzina, che si candiderà a sindaco, ma che non è esente, diciamo, dalla domanda che sarà formulata apposta, al dottore Noto e a Vincenzo Liberto, anche alla luce di queste di questi scompaginamenti che ci sono stati in Consiglio Comunale, chiediamo come si comporteranno in futuro in vista delle prossime elezioni. Attualmente sappiamo di tre candidati sindaci: la Punzina, Guercio e probabilmente questa uscita di Francesco Calabrese nei prossimi giorni. Tutti gli altri sono nomi di fantapolitica o di immaginazione, insomma, e quant'altro. Atteniamoci a questo. Dottore Noto, Punzina chiedo invece, che chiaramente non può allearsi con se stesso, è ovvio, ma se non passi il giro, se appunto ci sono in consiglio comunale dei gruppi con cui il Partito Democratico intende dialogare. Allora iniziamo dal dottore Noto. Allora, premesso che la situazione politica è molto fluida, che di giorno in giorno assistiamo a colpi di scena e quant'altro, per quanto mi riguarda da un punto di vista personale io non lo so, cioè, ma sono motivi diciamo miei intimi, personali, insomma, che in questo momento non posso prendere impegni su quelle che saranno le prossime elezioni, ma è una questione mia personale e non c'entra, diciamo, la mia addirittura politica. Per motivi personali oggi non può prendere impegni. Rosario, io l'impegno l'ha preso. Sono chiamato in causa anche perché la domanda non è rivolta a me, però io dico che bisogna dare una speranza a Cefalù e bisogna creare le condizioni per una ripartenza, cercare di avere tutti insieme la consapevolezza che bisogna partire dalle cose più semplici, quelle che si possono fare, il decoro della città, la vivibilità, e per questo ci vuole l'apporto di tutti, ci vuole anche una grande unione. Questa unione non si vede perché ci sono tanti candidati, tante cose. Io mi auguro che ci possano essere sintesi anche in queste, non nelle candidature, ma anche più che altro nelle alleanze, per cui noi cercheremo e ci apriremo a condizioni di governabilità. Ecco, la città va governata per cercare di dare risposte anche ai più piccoli rispetto a un'area degradata come quella che vediamo qui accanto, che è la villa comunale, che è oggetto di vandalismo continuo, ma per dare la soluzione anche ai problemi giornalieri come quelli dei parcheggi, come quelli della vivibilità in genere, per dare decoro a questa città nella pulizia, che non è confacente rispetto ai costi che i cittadini devono ogni giorno sostenere. Ecco, partendo dalle cose più semplici, quelle che si possono realizzare, è indubbio che ci vuole il concorso di tutti e che bisogna dare speranza a questa città per cercare che questa città possa essere di nuovo il centro che, come lo è stato negli anni passati, è la capitale delle Madonie. Vincenzo Liberto. Allora, rispondere personalmente su questa domanda mi sembra un po' superfluo. Se dovessi rispondere personalmente, opterei per un governo di salute pubblica con un unico sindaco insieme a tutte le forze politiche, così ognuno si prenderebbe le proprie responsabilità e non ci sarebbe questa, diciamo, caricare ad altri responsabilità altrui. Però devo ricordare che ognuno di noi credo faccia parte di un partito politico dove all'interno del proprio partito si prendono quelle che sono poi le decisioni democratiche rispetto anche a quelle che saranno le prossime elezioni. Naturalmente ognuno di noi all'interno del nostro partito cercheremo di dare quella che è la soluzione più ovvia o la scelta più proficua per i prossimi 5 anni. Professore Barracato, e poi l'ultimissima domanda di Peppe Livecchi e chiudiamo la mattinata radiofonica, prego. Io posso dire soltanto che Grande Sud, a cui io aderisco, farà la sua parte e con molta probabilità, anzi quasi certamente, esprimerà un candidato a sindaco che sarà comunicato, sarà nei prossimi giorni. E allora Peppe, ti invito cortesemente alla brevità. Molto brevemente. Daniele un po' ha anticipato quella che voleva essere la mia domanda, allora io la faccio in maniera provocatoria. Manca il PDL, e allora io vi dico, se il PDL vi fa gli sgarbi, voi siete pronti alle larghe intese? E allora, iniziamo da... Prego, Nicola, puoi rispondere con sì o con un no? No, a me il PDL non mi appartiene, quindi tutto quello che pensa il PDL non lo sento mio. Sarò la punzina? Sgarbi sarebbe veramente peggiore di quello che è stata la presenza di Pippo Guercio al Ministero di Cefalù, che Sgarbi non potrebbe occuparsi dei problemi di Cefalù. Sgarbi non è un candidato a sindaco, non potrebbe fare il candidato a sindaco, è stato assente a Salemi, ha fatto tanti guasti rispetto a quel paese, non potrebbe dare nessun contributo a Cefalù. Sgarbi è un guastatore della campagna elettorale, lo considero tale, è un modo per un altro per fare parlare del PDL in questo momento, perché del PDL non si ricordava nessuno. e per cui evidentemente si porta Sgarbi qui con la notorietà, ma evidentemente Sgarbi qui non potrà nemmeno assicurare la presenza come quella che aveva assicurato Cocco delle due volte alla settimana. Forse potrà venire una volta alla settimana e lasciare amministrare qua un vice sindaco. Se tu mi chiedi se questo vice sindaco potrebbe essere Roberto Corsello, io ti dico che il PDL non si fida di Roberto Corsello. Ecco, Vincenzo. Vincenzo Liberto. Allora, rispetto a Sgarbi, io ho questo personaggio, diciamo, in testa. Ogni qualvolta lo vedo in televisione. Meno male che non hai detto me lo sogno la notte. No, vai. Devo cambiare canale onde evitare che mia figlia capisca che il suo linguaggio sia di uso comune, e questo io lo vorrei evitare. In tutti i sensi. Poi mi immagino il cittadino che si presenta al comune da lui, magari per parlare con lui, che tipo di trattamento possa ricevere. La malaghi cazzo, ma vaffan, cioè tutta una serie di discussioni. Quindi io ritengo improbabile che Sgarbi possa essere uno di quei candidati utili per la città. Penso che abbia fatto anche poco a Salemi, rispetto al fatto che se per esempio dovessimo considerare che ho un amico di partito che è presidente del consiglio, e poi so anche che è successo che qualche volta in consiglio abbia tirato la sedia anche al presidente del consiglio, io vorrei scansare il mio presidente da questa ulteriore aggressività. La sedia poi è bella pesante, quella del consiglio comunale, quindi gli farebbe sicuramente male. Però devo dare diciamo anche abilità a Sgarbi dall'altro punto di vista, perché realmente continua, per esempio non so come fa a continuare ad essere nell'ambito pubblico come amministratore o come assessore, perché ho saputo anche che è un pregiudicato che è stato condannato per mi sembra perché mancava, era assente dalla soprintendenza e metteva dei certificati falsi, quindi per ciuffo allo Stato. Quindi ha questa abilità di essere nello stesso tempo un pregiudicato e rimanere, diciamo, nell'ambito della... Questo ecco, noi come CRM, come trasmissione radiofonica, prendiamo le distanze. Non l'abbiamo detto all'inizio. Ognuno si assume le responsabilità sulle dichiarazioni che fa. Scusami Vincenzo, ma questo è per noi, no, per noi questo è prassi consolidata, nel senso di ricordare che chi ha il microfono si assume la responsabilità su quello che dice. Non mi riferisco solamente a questa affermazione, ma a tutte le affermazioni che ogni domenica si affrontano e vengono fatte. Presidente, a lei e dopo il nostro direttore Mario Lombardo a chiudere questa mattinata. Io su Sgarbi direi che è un problema del PDL, non nostro sicuramente. Ecco, direttore, a chiudere. Prendo questo microfono, Pino, e ti ringrazio. Intanto vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Pippo Barracato per la sua disponibilità a partecipare a questa trasmissione. Ringrazio i capigruppo Rosario Lapunzina, Carmelo Mangano, Nicola Noto, il rappresentante del gruppo misto Vincenzo Liberto. Ritorno a fare gli auguri a Pasquale Messina per la sua salute e ringrazio i colleghi giornalisti Peppe Livecchi di Madonie Live, Mario Macaluso, Cefalù News e vice direttore del diciamo corrispondente del Giornale Sicilia, Riccardo Gervasi per la voce web, e poi nonché Nicola Pizzillo che rappresenta l'altro Cefalù e che è venuto qui alla Villa Comunale insieme a Daniele Tumminello, Gianfranco Danno e Francesco Scorsone. E vorrei ringraziare i titolari della Villa Bar che ci hanno dato questa opportunità, come ogni anno, con molto fair play, fare questa trasmissione, e credo che sia proprio tutto dal giovane Fabio, che in funzione di cameraman, da Angelo Arduino, che cura la regia della trasmissione, del factotum, un po' di tutto, da Pino Simplicio, che ha condotto questa trasmissione, e da Mario Lombardo ancora una volta una felice giornata ai nostri radioascoltatori.